Vi confesso che maligno qual sono, mi sono divertito moltissimo alla notizia che nel marzo dell'anno scorso l'allora Presidente della Repubblica Cossiga, personaggio per cui non ho mai nascosto una certa mia antipatia e su cui non sembra si debba rivedere il giudizio solo perché il suo successore è ben avviato a comportarsi quanto a povertezza costituzionale peggio di lui, che Cossiga dunque nel corso della sua visita di Stato in Russia aveva avuto occasione di sostare tutto compunto nel cimitero della cittadina di Suzdal di fronte a quella che supponeva essere la tomba collettiva dei nostri compatrioti caduti nell'infausta campagna del 41-43 e che invece non lo era affatto, trattandosi di un cippo eretto in fretta e furia dalle autorità locali desiderose di compiacere l'illustre ospite, che avevano agito senza preoccuparsi affatto che in quel cimitero fossero o non fossero sepolti dei soldati italiani. Ovvero quello che tecnicamente, e con tutto dovuto rispetto per le vittime della tragedia dell'ultima guerra, si suol definire un pacco. Non che ci sia niente di divertente, intendiamoci, nel desiderio dell'ex presidente Cossiga di ostentare il suo pensoso interesse per la sorte dei nostri caduti e nello zelo con cui le autorità russe lo hanno compiaciuto, dimostrando una volta di più quali abissi di servilismo possono precipitare i governanti di quella che un tempo è stata una grande potenza e che ancora prima, nella notte dei tempi, è stato addirittura un faro di speranza per l'umanità oppressa. Il rispetto per i caduti è un sentimento affatto commendevole e si può esprimere benissimo anche in assenza dei resti mortali dei caduti stessi. Le tombe, come sa qualsiasi studente dell'ultimo anno di liceo riprese con l'opera di quel lazzarone di Ugo Foscolo, sono oggetti di natura eminentemente simbolica. Persino gli antichi, che alla sepoltura annettevano una quantità di significati magici, escatologici, rituali che noi non condividiamo affatto, avevano inventato il concetto di cenotafio, di tomba vuota, indicando come tale un monumento funebre che pur in assenza del corpo del defunto esercita ai fini del suo benessere nell'aldilà e delle necessità di culto dei sopravvissuti gli stessi benefici effetti di una tomba vera e propria. Così che, sforzandosi un pochino, si potrebbe dire che di fronte a un cenotafio, appunto, nel cimitero di Suzdal si è raccolto in meditazione l'ex presidente Cossiga, e in questo non ci sarebbe davvero nulla da criticare o nulla di cui divertirsi. Ma naturalmente una tomba è una tomba e un cenotafio è un cenotafio. E in particolare a me sembra che un cenotafio, per essere quello che vuole essere, deve essere dichiarato in quanto tale, se no è semplicemente un pacco, che è un concetto non certo privo di un suo valore ideologico, ma in un modo o nell'altro deve essere adeguatamente spiegato. A me, che sono maligno, piace pensare che le autorità russe, nel erigere affettuosamente quel cippo, si siano dimostrate soprattutto dotate di una specie di realismo istintivo. Mi spiego. Avendo intuito, e non era difficile, quanto poco fosse sincero e genuino il desiderio di raccoglimento dell'ex presidente Cossiga, cui naturalmente dei nostri caduti in Russia premeva poco o niente, interessandogli soprattutto la possibilità di utilizzare la loro sorte ai fini di becera la polemica interna, ricorderete tutti la torpitudine del balletto sulla lettera di Togliatti e così via, no? Avevano pensato che per esternare una finta compunzione bastava e avanzava una finta tomba, che oltretutto serviva anche a loro per esprimere un'altrettanto finta alterità rispetto ai tempi in cui non si divenivano autorità russe ma autorità sovietiche. Il che farebbe rientrare tutto l'episodio nella ben nota tipologia del beffatore beffato, o in questo caso del pacchista paccato, mentre l'ex presidente della Repubblica cercava di fregare noi, giocando macabramente sulle ossa dei morti, gli astuti russi hanno fregato lui. Che è cosa che in effetti ci permette una sia pur malinconica forma di divertimento. Che poi alla somma carica dello Stato italiano debbano sempre essere eletti degli inveterati pacchisti, come sembra proprio essere anche colui che attualmente vi siede e che non a caso era stato sponsorizzato da quel campione mondiale della specialità che è ben noto Pannella, che col senatore Cossiga non si vergogna a esibirsi impudicamente abbracciato in televisione e altrove, beh, questo è un altro discorso e vi concedo che non è affatto divertente. I wish that I was a star, I'm moving in You're dark in a deep blue sky, where love and hate are left behind the moon. Where nothing can go wrong, and myself can get along. Sometimes I wonder how long it will be before I can settle down. For this busy world gets a busier each day. Well, I don't want to complain, but I find the world insane.